Il re di Cipri. Dico adunque che nei tempi del primo re di Cipri, dopo il conquisto fatto della Terra Santa da Gottifredi Buglione, avvenne che una gentildonna di Guascogna in pellegrinaggio andò al sepolcro, donde tornando, in Cipri arrivata, da alcuni scellerati uomini villanamente fu oltreggiata, di che ella, senza alcuna consolazione dolendosi, pensò d'andarsene a richiamare al re. Ma detto le fu per alcuno che la fatica si perderebbe, perciò che egli era di sì rimessa vita e da sì poco bene, che, non che egli l'altrui onte con giustizia vendicasse, anzi infinite con vituperevole viltà a lui fatte ne sosteneva, intanto che chiunque aveva cruccio alcuno, quello col fargli alcuna onta o vergogna sfogava. La qualcosa udendo la donna, disperata della vendetta, a alcuna consolazione della sua noia, propose di voler mordere la miseria del detto re, e andatasene piagnendo davanti a lui, disse: «Signor mio, io non vengo nella tua presenza per vendetta che io attenda della ingiuria che m'è stata fatta. Ma in soddisfacimento di quella ti priego che tu mi insegni come tu sofferi quelle le quali io intendo che ti son fatte, a ciò che, da te apparando, io possa pazientemente la mia comportare, la quale, sallo Iddio, se io farlo potessi, volentieri te la donerei, poi così buono portatore ne sei». Il re, infino allora stato tardo e pigro, quasi dal sonno si risvegliasse, cominciando dalla ingiuria fatta a questa donna, la quale agramente vendicò, rigidissimo persecutore divenne di ciascuno che contro all'onore della sua corona alcuna cosa commettesse da indi innanzi. Giovanni Boccaccio.